Vangelo di San Luca, capitolo 19. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di veder chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché gli aveva da passar per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua». Ed egli s'affrettò a scendere e l'accolse con allegrezza. E veduto ciò, tutti mormoravano dicendo: «È andata ad albergare da un peccatore». Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: «Ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualche cosa, gli rendo il quadruplo». E Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliuolo di Abramo, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito». Or, come si ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi pensavano che il regno di Dio stesse per essere manifestato immediatamente. Disse dunque: «Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura d'un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servitori, diede loro 10 mine e disse loro: «Trafficate finché io venga». Ma i suoi concittadini l'odiavano, e gli mandarono dietro un'ambasciata per dire: «Non vogliamo che costui regni su noi». Ed avvenne, quando egli fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, che egli fece venire quei servitori ai quali aveva dato il denaro, per sapere quanto ognuno avesse guadagnato trafficando. Si presentò il primo e disse: «Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10». Ed egli disse: «Va bene, buon servitore, poiché sei stato fedele in una cosa minima, abbi podestà su 10 città». Poi venne il secondo dicendo: «La tua mina, signore, ha fruttato 5 mine». Ed egli disse anche a questo: «Tu sii sopra 5 città». Poi ne venne un altro che disse: «Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei uomo duro. Tu prendi quel che non hai messo e mieti quel che non hai seminato». Ed il padrone a lui: «Dalle tue parole tu giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quel che non ho messo e mieto quel che non ho seminato. E perché non hai messo il mio denaro alla banca, ed io al mio ritorno l'avrei riscosso con interesse?» Poi disse a coloro che erano presenti: «Toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine». Essi gli dissero: «Signore, egli ha 10 mine». «Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Quando poi a quei miei nemici che non volevano che io regnassi su loro, menateli qua e scannateli in mia presenza. E dette queste cose, Gesù andava innanzi, salendo a Gerusalemme. E avvenne che, come fu vicino a Betfage e a Betania presso al monte detto degli Ulivi, mandò due discepoli dicendo: «Andate nella borgata di rimpetto, nella quale, entrando, troverete legato un pulledro d'asino, sopra il quale non è mai montato alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte così: il Signore ne ha bisogno». E quelli che erano mandati partirono e trovarono le cose come egli aveva lor detto. E come essi scioglievano il pulledro, i suoi padroni dissero loro: «Perché sciogliete il pulledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». E lo menarono a Gesù, e gettati i loro mantelli sul pulledro, vi fecero montar Gesù. E mentre egli andava innanzi, stendevano i loro mantelli sulla via, e com'era già presso la città, all'ascesa del monte degli Ulivi, Tutta la moltitudine dei discepoli cominciò con allegrezza a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano vedute, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi celesti». Ed alcuni dei farisei di fra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida ai tuoi discepoli». Ed egli rispondendo disse: «Io vi dico che se costoro si tacciono, le pietre grideranno». E come si fu avvicinato, vedendo la città, pianse su lei dicendo: «Oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace! Ma ora è nascosta agli occhi tuoi, poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo del quale sei stata visitata». Poi, entrato nel tempio, cominciò a cacciare quelli che in esso vendevano, dicendo loro: «Egli è scritto, la mia casa sarà una casa d'orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni». Ed ogni giorno insegnava nel tempio, ma i capi sacerdoti, gli scribi e i primi fra il popolo cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra.